Sappiamo che per secoli lo studium è stato sostanzialmente indipendente dall'istituzione ecclesiastica, ma alcuni edifici religiosi divennero luogo di ritrovo per gli studenti. Ne è un esempio la chiesa di San Procolo, che si trova in via d'Azeglio. Procolo era un legionario romano di fede cristiana, vissuto verso il 300 d.C. Pare avesse cercato di convertire alcuni dei suoi commilitoni e per questo fu perseguitato dai commissari imperiali dell'imperatore Diocleziano e infine decapitato. Si racconta che, dopo che la testa gli fu spiccata dal corpo, l'abbia raccolta e abbia compiuto alcuni passi. Il suo culto è uno dei più antichi della città di Bologna, come testimonia il fatto che sulla prima cinta muraria che avvolse la città fosse presente una porta col suo nome, Porta Procula. Intorno alla chiesa di San Procolo si dice che un misterioso ordine monastico, quello dei Benedettini Neri, abbia fatto costruire un cimitero, di cui oggi non rimane alcuna traccia, fatta eccezione per un'enigmatica lapide in latino che recita: «Si procul a proculo proculi campana fuisset, nunc procul a proculo proculus ipse foret. Anno Domini 1393». Tradotta letteralmente, l'iscrizione sembra priva di significato. Se la campana di Procolo fosse stata lontana da Procolo, oggi lo stesso Procolo sarebbe lontano da Procolo. In molti si sono cimentati nel tentativo di interpretarla, e c'è chi sostiene che si tratti di un epitaffio in memoria di uno studente chiamato Procolo, omonimo del martire, morto a causa del crollo della torre del campanile. L'epitaffio sarebbe quindi una sorta di gioco di parole basato sull'omonimia tra lo studente, il nome della chiesa, e la parola Proculus, che in latino significa lontano. Il significato dell'iscrizione potrebbe quindi essere: se Procolo fosse stato lontano dalla campana di San Procolo, ora lo stesso Procolo non sarebbe sepolto nel cimitero di San Procolo. Nel 1248 cominciarono i lavori di ristrutturazione della chiesa e in quel periodo il cantiere divenne sede dell'opera muratoria di Bologna, come attestato da un documento notarile dell'epoca. Questo, denominato carta, è la prima testimonianza esistente di un luogo di ritrovo dei liberi muratori, la cui associazione darà inizio secoli dopo alla massoneria. Ed è proprio intorno a una loggia, costruita appositamente, che avvenivano le riunioni degli studenti. A quell'epoca la chiesa di San Procolo sarebbe stata luogo d'incontro tra gli universitari e gli affiliati all'opera muratoria, favorendo il reciproco scambio culturale, soprattutto negli ambiti dell'astronomia, della filosofia e della matematica. A incentivare questo scambio il fatto che nel XIII secolo l'università non risentiva dell'influenza dello studio della teologia, che avveniva nell'ambito della curia, e poteva dedicarsi liberamente allo studio della filosofia aristotelica e ai miti dell'esoterismo orientale. I Benedettini Neri non sono l'unico ordine monastico della città la cui esistenza è ammantata di mistero. Verso la metà del 300, infatti, una misteriosa congregazione di devoti alla Vergine Maria, di cui oggi si sono perse le tracce, commissionò un ciclo di affreschi per decorare la chiesa di Santa Pollonia di Mezzaratta, posizionata a metà della salita del Colle Osservanza e probabilmente da loro fondata. L'artista che venne ingaggiato fu Vitale degli Equi, noto anche come Vitale da Bologna, all'epoca estremamente popolare in città. Siamo nel 1352. La città si sta riprendendo dall'epidemia di peste, cominciata nel 1348 e durata un paio d'anni, che ne ha decimato la popolazione. Scrive un cronista del tempo: «Fu una grande mortalità a Bologna, e fu così violenta da uccidere 3 persone su 5, e forse anche di più. In tutta Europa le città sembravano tombe, piene com'erano di cadaveri insepolti». All'ingresso della chiesa, Vitale dipinse una natività che sembra una danza che coinvolge una trentina di figure intorno a Maria con il bambino al collo, un'altra opera denominata Madonna del Dente e la decorazione absidale, quest'ultima andata perduta durante la costruzione dell'ottocentesca Villa Minghetti. Ma quello che ha attirato l'attenzione degli studiosi è l'enigmatico affresco detto «Il sogno della Vergine». Ritrae Maria, addormentata sul letto, che in sogno vede uscire dal proprio grembo un albero. In cima al ramo più alto c'è suo figlio, Gesù, crocifisso. Accanto a lei c'è una misteriosa figura femminile, intenta nella lettura di un testo. Quello del sogno della Vergine è un soggetto assolutamente insolito per l'epoca e per la tradizione cristiana. Esistono solo altre 3 opere, di poco successive a quella di Vitale da Bologna, che riprendono questo soggetto che ben presto scomparirà dall'iconografia cristiana, portando con sé l'enigma della sua ispirazione originaria. Questo episodio della vita di Maria, infatti, non è presente nella letteratura cristiana canonica, né nei Vangeli cosiddetti apocrifi, intorno ai quali c'era molto interesse in epoca medievale. C'è chi sostiene che sarebbe stato retaggio di un culto pagano di origine orientale, ma secondo recenti studi, Vitale da Bologna sarebbe stato ispirato dalle illustrazioni presenti nello Speculum Humanae Salvationis, un trattato iconografico medievale che ebbe grande diffusione nei paesi anglosassoni, ma che in Italia era pressoché sconosciuto. La tesi fa presupporre un collegamento tra i committenti degli affreschi e l'ordine dei Domenicani, nell'ambito del quale si diffuse lo Speculum. Gli affreschi di Santa Pollonia di Mezzaratta sono stati rimossi dalla sede originaria nel 1949 e sono oggi conservati nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. La statua perduta di Michelangelo.